macchine o cose viventi. I robot non provano niente. Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. Sono ovunque, nelle nostre tasche sotto forma di smartphone, nelle nostre borse come tablet o computer portatili, sui nostri desk come PC. Osservano il nostro passaggio, misurano la nostra velocità sulle autostrade o i nostri ingressi nelle zone a traffico limitato delle nostre città. E a proposito, regolano anche l'accensione e lo spegnimento di semafori e luci, oltre che il corretto funzionamento della nostra auto. Guidano i nostri aerei, studiano chi siamo per venderci prodotti sempre più adeguati a ciò che ritengono che ci interessi, il che in fondo vuol dire che sanno chi siamo. Effettuano autonomamente miliardi di transazioni di borsa ogni giorno, analizzando i dati, leggendo e interpretando le notizie. Fanno la guerra, colpiscono obiettivi e terroristi, intervengono o possono intervenire in emergenza di protezione civile, possono fare diagnosi, in futuro curarci, entrare nelle fabbriche, forse sostituirsi a noi. Una buona giornata da Simone Spezia. E buongiorno anche dalla macchina che, in un futuro non troppo lontano, ne prenderai posto. Questa è l'era dei robot. Voi ci siete dentro e, come avete sentito, ci sono dentro anch'io. Noi stiamo arrivando. Anzi, siamo già qua. E secondo qualcuno, dovreste iniziare ad avere paura. Tu, Simone, che ne dici? Beh, dico che il momento è ancora lontano a sentire quello che sento. Eppure penso che tu, questo oggetto robotico, intanto vi invito a dargli un nome. Abbiamo tempo per tutta l'estate, potete scriverci era dei robot @radio24.it. Sei un prodotto dozzinale che si può trovare su qualsiasi computer, al quale posso impartire istruzioni che sostanzialmente coincidono con l'ordine di leggere qualcosa. E penso invece a tutti quei centralini elettronici che ancora ci incastrano, ancora ci creano qualche problema, e che però stanno diventando sempre più perfezionati, sempre più pronti a riconoscere il linguaggio naturale. Sono ad un passo, appena ad un passo, al poter interagire con un essere umano in perfetta naturalezza, ossia ad un passo dal momento nel quale non ci sarà più bisogno di call center. Non ci sarà più bisogno di call center, non ci sarà bisogno di speaker e giornalisti radiofonici, forse non ci sarà nemmeno più bisogno di golf. A me non mi piacciono questi scherzi, Artù. Tu mi devi spiegare, ma chi è sta Caterina? Ma come chi è Caterina? Ti ha servito un whisky, è un robot. Sì, è un robot. Ma come, serve whisky? Certo, è cameriera artificiale, una macchina elettronica programmata per tutti i servizi domestici. Le macchine stanno crescendo, i computer stanno imparando ad imparare, ossia a capire dove risiede un errore, a correggerlo, a localizzare, mappare simultaneamente cose che prima non erano in grado di mappare, a parlare naturalmente e a rispondere, come abbiamo detto, naturalmente. Insomma, il dibattito tra gli economisti è aperto e profondo. Le macchine ci sostituiranno progressivamente? Senta, io non me ne intendo, ma ho un'idea per una delle vostre pubblicità. Si potrebbe mostrare un falegname che fabbrica una bella sedia, e poi uno dei vostri robot arriva e fa una sedia migliore in metà del tempo. E mettete una grande scritta sullo schermo: USR, l'uomo medio fa cagare. Ah, e qui c'è una dissolvenza. Due professori dell'MIT di Boston, uno Andrew McAfee, lo sentiremo nelle prossime settimane, in una delle prossime puntate, sostengono che siamo in una nuova rivoluzione delle macchine, per dirla con il titolo del loro libro, tra l'altro consigliato. E citano un altro libro che sta diventando un po' un simbolo delle previsioni fallaci. È un libro del 2004, di appena 10 anni fa, di altri due economisti dell'MIT, Frank Levy e Richard Murnane, La nuova divisione del lavoro. E citano, non sono i soli che lo fanno, lo fa anche un polemista americano, un giornalista che si chiama Nicola Scar, anche lui lo sentiremo nelle prossime settimane, e citano questo passaggio, sentite. Quando l'autista sterza a sinistra nel traffico, affronta una muraglia di immagini e suoni generati dalle auto che gli vengono incontro, semafori, vetrine, cartelloni, alberi, un vigile che dirige il traffico. Facendo ricorso alla sua esperienza, deve valutare la dimensione e la posizione di ciascuno di questi oggetti e la probabilità che comportino un pericolo. L'autista possiede lo schema per riconoscere quanto davanti. Però, articolare questa conoscenza ed inserirla in un programma informatico per tutte le situazioni è un compito enormemente difficile. I computer non possono sostituire facilmente gli esseri umani nelle attività come la guida. famose previsioni fallaci. Sono passati una decina di anni più o meno e le macchine che si guidano da sole di Google hanno percorso 1 milione di chilometri e fatto complessivamente un paio di incidenti prevalentemente dovuti ad un errore umano. Ci ha raggiunto in studio, e iniziamo proprio da qua, ci ha raggiunto in studio Giorgio Metta dell'Istituto Italiano di Tecnologia e si occupa sostanzialmente di iCub, Giorgio Metta, che è un piccolo robottino umanoide. Impareremo a conoscerlo nel corso di questa trasmissione. Io però la prima domanda che voglio fare a Metta su questo punto è proprio su questo punto: perché è così importante un'auto che si guida da sola dal punto di vista dell'evoluzione del robot? Perché noi pensavamo, e questo ha molte relazioni con lo studio del cervello umano, pensavamo che solo il cervello umano fosse in grado di reagire a una molteplicità di stimoli, cosa che esattamente la guida richiede, e invece ci troviamo in una situazione nella quale le macchine sono perfettamente in grado di farlo. Innanzitutto buongiorno Metta. Buongiorno. E ci aiuti a capire. Ma sostanzialmente è importante perché, proprio perché è stata una previsione fallace in realtà. L'auto che guida da sola era dominio della fantascienza e poi è diventato invece una realtà. Ci sta facendo capire che l'intelligenza artificiale è arrivata a un punto di svolta in qualche modo e consente di affrontare dei problemi reali. Fino a poco tempo fa si potevano affrontare quelli che si chiamano un po' problemi giocattolo, quindi delle cose dentro un calcolatore, dimostrare che si potevano fare trovare piccole soluzioni. In questo momento gli algoritmi ci consentono invece di guidare l'automobile, di pianificare le nostre vacanze, di gestire impianti complessi in maniera completamente automatica. Ormai ogni giorno ci sono nuovi articoli scientifici con nuove soluzioni a problemi veri, quindi sembra che si possa fare il salto di qualità e quindi avere le macchine autonome di fatto nella vita di tutti i giorni. E questo, come avete capito, è il punto centrale, è l'accelerazione della tecnologia che è stata enorme in questi ultimi anni. Se avete un iPhone o anche un qualsiasi altro telefono che possegga una qualsiasi forma di assistente digitale, sapete che per esempio gli potete chiedere di aprire un'applicazione, di prenotarvi un biglietto dell'aereo o del treno, di indicarvi una strada, di dirvi come va una partita, di aggiornarvi sulle ultime notizie, di scrivere un tweet o un SMS per voi o anche un'email. Forse non lo fa ancora perfettamente, ma 10 anni fa non avreste nemmeno immaginato che lo potesse fare. Poi ci sono le fabbriche. Il punto è che le macchine sono state, almeno fino adesso, come avete sentito da Metta, molto brave, ottime in compiti estremamente specializzati ed estremamente precisi. Lo sono state meno in altri. Un robot sa esattamente dove inserire un pezzo in uno schema che si ripresenta sempre uguale, per esempio un pezzo, qualcosa da avvitare in un pezzo che passa su una catena di montaggio, meno su compiti un po' più imprecisi fino ad ora, ma qualcosa sembra sta cambiando. Voglio un vestito nuovo e subito. Un altro? Completamente diverso da questo. Non deve mostrare nulla né sotto, né sopra, né attraverso. A prova di raggi? No, basta a prova di sguardo. Molto pesante? Oh, no, no, Robby. Il più morbido e fine che tu abbia mai confezionato per me. Molto aderente. E con tanti zaffiri stellari. Ci vuole una settimana per cristallizzarli. Subito diamanti o smeraldi. Purché siano grandi. 10, 20 e anche 30 carati. Avrai il vestito per l'ora di colazione. Chissà, forse anche come in questo mitico film Il pianeta proibito, che ha rappresentato per molti una sorta di primo simbolo del robot tuttofare, questo Robby che poi alla fine di fatto partecipa al salvataggio degli umani che arrivano su questo pianeta, chissà, magari ci sarà anche qualcosa di questo genere, la completa personalizzazione delle esigenze del consumatore. Di questo torniamo a parlare parlare con Giorgio Metta, e col quale parleremo anche di quello che è il loro progetto di iCab e del libro che lui ha scritto insieme a Roberto Cingolani, che è il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, il cui titolo è Umani e Umanoidi, vivere con i robot, quindi più dedicato specificatamente ai robot umanoidi, appunto, più che alle macchine in generale, ma si tocca anche il tema delle macchine in generale. Di tutto questo parleremo, ma tra un attimo. Salve, cervelloni. L'era dei robot. Ed eccoci di nuovo. È il momento forse di introdurre un nuovo personaggio, una nuova macchina, un nuovo robot. Ma lasciamo che si presenti da solo. Ciao Simone, io sono iCab dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Sono un robot con la forma di un bambino di 4 anni, ma presto sarò più grande e vi aiuterò nel vostro lavoro. Infatti, sono in grado di imparare cose nuove, grazie ai miei bravi insegnanti. Riconosco oggetti e persone, e se sbaglio lo capisco. Ho 30 fratelli che sono partiti da Genova per vivere in altri paesi del mondo, come gli Stati Uniti e il Giappone. Dunque, Giorgio Metta, questo è il pane vostro, sostanzialmente il pane quotidiano. iCab è questo piccolo robottino del quale avete sentito la voce e del quale evidentemente in radio non possiamo farvi vedere nulla, e però vi basta fare un giro su YouTube per capire di che cosa stiamo parlando, e che tra l'altro voi avete deciso di diffondere in una sorta di progetto open source, cioè rendere disponibile questa tecnologia un po' a tutti perché ci lavorassero. Sì, sostanzialmente abbiamo fatto il contrario di quello che fanno le grosse companies che stanno investendo in questo momento in robotica, e abbiamo deciso che ci serviva una comunità di sviluppatori, una comunità di colleghi scienziati per andare più veloci nella ricerca. Per cui dall'inizio il progetto è stato open source, è stato aperto sia dal punto di vista dell'hardware che da quello del software, per cui il progetto è disponibile, i nostri colleghi hanno cominciato in qualche modo ad appassionarsi a quest'idea e adesso ne abbiamo 30 e siamo riusciti a vendere, tra virgolette, un robot anche in Giappone, che se vogliamo è la patria della robotica umanoide, dove è nata la robotica umanoide. Allora, ci sono delle caratteristiche interessanti di iCab che secondo me sono esattamente al centro del tema che vogliamo anche andare a trattare. Noi dovremmo avere un altro racconto di se stesso, di iCab, e vediamo se riusciamo a farvelo ascoltare. Sono capace di riconoscere gli oggetti e di utilizzarli. I miei genitori mi hanno insegnato a stare in equilibrio sulle mie gambe, così che inizio a fare i primi passi. Del mio corpo posso muovere tutto, non solo le gambe, testa, braccia, mani, busto. Inoltre, ma è quasi un segreto, soffro il solletico perché tutto il mio corpo è ricoperto di una pelle artificiale creata per me. Quindi vorrei riassumere un attimo. Allora, può imparare e imparare anche a rispondere, a parlare con noi. Si muove e si muove anche abbastanza bene, ha un discreto grado di libertà di movimento. Ha i sensi, vede, parla, ascolta e ha una pelle sulla quale percepisce qualcosa. Vedete quanto inizia a diventare faticoso, e Metta, vorrei parlarne con lei, distinguere qualcosa di questo genere da un essere umano? Ma le tecnologie sono ancora molto diverse. Di fatto noi immaginiamo che in un futuro, insomma, un po' più lontano, i robot tenderanno a essere macchine dove si unirà la scienza dei materiali, la realizzazione di un corpo soffice con diciamo la tecnologia digitale. Al momento i robot però sono fatti da un insieme di meccanismi, ingranaggi, metallo. Quello che abbiamo cercato di fare in questo robot specificamente è stato quello di coprirlo di fatto di sensori. Questo perché noi pensiamo che la capacità di vedere, di sentire col tatto siano la porta poi alla conoscenza del mondo. Se il robot deve imparare, deve essere in grado di appunto utilizzare questi sensori per vedere e sentire cosa c'è intorno, raccogliere informazioni, capire quando ha sbagliato, capire se ci sono delle persone, ascoltare cosa dicono le persone, mettere tutte queste informazioni insieme nel suo cervello artificiale e poi appunto imparare a fare delle cose, così che un giorno noi potremo chiedere al robot di portarci il caffè e lui saprà riconoscere qual è la caffettiera, andare a prendere gli ingredienti giusti, metterli insieme e poi alla fine camminare fino a noi e portarci il nostro caffè al mattino. C'è un punto interessante dal quale vorrei ripartire. Nel vostro libro che citavamo prima, Umani e umanoidi, vivere con i robot, voi si parla anche di un esempio interessante, no? Noi tendiamo a dare nomi agli oggetti che abbiamo intorno, o comunque a dargli una sorta di personalità. Quante volte sarà capitato anche a voi con la vostra auto, che alla fine è un macchinario tutto sommato piuttosto semplice, per quanto sempre più complesso, e anche su questo tema avremo modo di tornare. Ci sono esempi che riguardano non solamente Google, ma per esempio la Tesla, che sta appunto ormai ha creato delle macchine che aggiornano il loro software più o meno a nostra insaputa durante la notte, la mattina dopo sanno fare delle cose che prima non sapevano fare. Il tema è questo: il confine, la distinzione appunto tra l'essere umano e il robot, che si fa sempre più sottile anche in quella che è la nostra percezione. È vero, ed è vero perché queste sono macchine interattive, quindi sono macchine che noi progettiamo per l'interazione con l'essere umano, per cui come parte dei nostri studi noi in realtà andiamo a studiare l'interazione uomo-macchina e a costruire nei nostri algoritmi tutta una serie di segnali che poi in qualche modo anche inconsciamente attivano delle reazioni nell'essere umano che portano in qualche modo a antropomorfizzare la macchina, e questo credo che sia importante. Se noi vogliamo delle macchine che siano accettate nella vita di tutti i giorni, devono essere fatte in un certo modo, devono avere un certo design, devono essere belle da vedere, devono muoversi anche in maniera naturale. Se un robot si muove come un robot, come siamo immaginati a vedere, non ce lo vogliamo mettere in casa. Di fatto, se un robot comincia a muoversi come un essere umano, per noi è un compagno, è qualcosa, è un animale, però è qualcosa che è molto più vicino a noi stessi. Lo so che questo inquieterà un po' i nostri ascoltatori, perché dal punto di vista intellettuale il passaggio è complicato. Voi addirittura sostenete che ci vorrà, nel momento nel quale avremo una vera intelligenza artificiale e dei robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale, avremo bisogno di una sorta di nuovo codice etico. Ripeto, qua siamo sempre sul confine sottile tra quello che è l'intelligenza artificiale, il momento nel quale si passa da quella che è una creazione umana ad un entità autonoma. Il problema, se volete, è veramente filosofico, nel senso che nel momento nel quale c'è questa creazione, nel momento nel quale questa creazione è in grado di apprendere, di sentire, la differenza con la vita vera e propria, ripeto, rimane su una linea molto sottile. Che cosa intendete con la necessità di un codice etico? Ma sostanzialmente, con qualunque tecnologia dobbiamo considerare due aspetti. Uno è quello dell'utilizzo della tecnologia, quindi le tecnologie possono essere buone o cattive a seconda dell'uso che se ne fa. La robotica ci porrà di fronte a questi aspetti. Dovremo considerare il fatto che abbiamo una nuova macchina, come è stato l'automobile un secolo fa, che in qualche modo interagisce con l'essere umano, quindi ce la troveremo in giro dappertutto, e quindi sarà necessario un codice di utilizzo, perché poi altrimenti, insomma, quando uno supera i limiti di velocità e fa dei danni, c'è un codice che regolamenta il fatto che non si doveva fare. Stessa cosa sarà per i robot. Se io programmo un robot per fare certe cose e faccio poi dei danni, dovrò avere delle regole per gestire la situazione, anche l'assicurazione magari. Le faccio una domanda brutale, che poi è quella che attraverserà un po' tutta la nostra trasmissione. Ci rubano, ci ruberanno il lavoro? Ma io la vedrei più come una grossa opportunità. Non è un problema da sottovalutare, quello della sostituzione dei lavori fatti normalmente dall'essere umano con delle macchine, però è anche una grossa opportunità economica, perché c'è tutto un mercato, come abbiamo visto con gli smartphone. Di fatto c'è un mercato che può nascere dietro al dispositivo. Se noi vediamo il robot come il dispositivo, ci sarà il mercato delle app, ci sarà il mercato di chi costruisce i robot, ci sarà la possibilità di fare una produzione anche sostenibile, quindi abbassare i costi, perché di fatto le macchine sono più efficienti, consumano poco o potranno consumare poco, e porteranno, se volete, indietro la produzione dai paesi dove in questo momento costa poco solo perché le persone sono sottopagate o vivono in condizioni poi disagiate. Allora, ringraziamo Giorgio Metta dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che abbiamo voluto ospitare in questa prima puntata, anche per parlare, lo faccio veramente in 20 secondi, l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Non sto qua a darvi numeri, non sto qua a raccontarvi che cosa è, però è uno degli esempi di grande eccellenza di questo paese, e uno degli esempi, fatecelo dire, forse rari, forse ne sono troppo pochi, di attrazione di talenti invece che di respingimento di talenti, praticamente da tutto il mondo. Abbiamo parlato di tanti argomenti seri, prendiamola un attimo a ridere. Dici un po' chi sei. Il mio nome è Genis 414. Sono un'unità per servizi domestici della 400esima serie. So cucinare, fare pulizie, sono maggiordomo, giardiniere, autista. Sono stato programmato per rispondere ad una serie di ordini di tipo domestico. Genis, parecchia la tavola e poi lasciaci, vogliamo star soli. Venga, Mike. Ci sono i robot femmine, ci sarebbero possibilità illimitate. Un ringraziamento caldissimo a Woody Allen con Il Dormiglione. Andiamo in chiusura. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. E scriveteci anche per dare il nome a questa voce che ci accompagna, Era dei Robot, @radio24.it. Ci si sente comunque lunedì alle 13 con Effetto Giorno e poi sabato prossimo con l'Era dei Robot. Una buona giornata da Simone Spezia.